Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre, alcune informazioni di servizio. La prima è la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. La seconda informazione riguarda il nostro sito radio24.it, completamente rinnovato. È possibile entrare all'interno dei singoli programmi, dove troverete i profili dei conduttori, quindi compreso il mio, e lì troverete il mio blog Guardie o Ladri. Potete visitarlo in questo modo, attraverso un motore di ricerca, oppure andate sull'home page del Sole 24 Ore e lì lo trovate e lo potete commentare. Allora, oggi la puntata mi piace, molto stimolante, perché nasce da un'intervista che ho letto sulla Stampa dell'11 febbraio, pagina 46 per gli amanti delle emeroteche, dove ancora andare a trovare delle copie cartacee, ormai stanno scomparendo, se no si digita su internet, e lì ho letto una bellissima intervista a Paolo Gallinaro. E voi direte: chi è Paolo Gallinaro? Allora, è un professore illustre, è il direttore della prima clinica ortopedica del centro traumatologico di Torino, quindi un luminare, voglio dire. Allora, vi leggo il titolo della Stampa: primari, basta concorsi, meglio raccomandare. Le gare in ospedale sono una farsa, costruite ad hoc. Beh, non poteva non incuriosirmi un'intervista del genere, infatti l'ho letta e oggi sono qui a ringraziare innanzitutto la Stampa per questa intervista e poi il dottor Paolo Gallinaro, che ho con me al telefono. Buongiorno Gallinaro. Buongiorno a lei. Allora, visto che i giornalisti sono sempre colpevoli di tutto in Italia e spesso i titoli vengono, come dire, fatti male a seconda del giudizio di chi lo interpreta, le chiedo: la Stampa di Torino ha riassunto bene o ha riassunto male il suo pensiero? L'ha riassunto benissimo, anche nel titolo. Benissimo, infatti questo. Quindi noi partiamo da questo principio che lei dice: ma perché? Perché fare dei concorsi per scegliere le persone? Può spiegarlo meglio questo concetto? Perché è molto interessante, devo dire. Lo spiego con un esempio. L'esempio del concorso ippico, le corse dei cavalli: uno arriva primo, uno arriva secondo, uno arriva terzo. Ma che senso ha fare un concorso in cui non c'è un vincitore? Ci sono tre idonei particolarmente adatti a ricoprire quel posto e il direttore generale sceglie. E allora faccia che scegliere. Allora, lei dice, vediamo se riassumo bene, mi corregga. Io ho la possibilità di fare un concorso pubblico, perché in Italia i concorsi sono pubblici e regolamentati dalla Costituzione. Io faccio in modo che il concorso dia la possibilità di avere X idonei. All'interno degli X idonei, il direttore sanitario, che è equiparabile... Il direttore generale, mi scusi. Il direttore generale, comunque insomma, che è equiparabile al capo di una grandissima impresa o al direttore di un giornale, all'interno di quelle persone sceglie chi vuole, così? Esatto. Oh, benissimo. Ma allora, a questo punto sarebbe meglio modificare la Costituzione e dire che ciascuno è libero di fare quello che vuole. No, vede, l'equivoco sta nel fatto che noi siamo ospedali, siamo azienda, quando fa comodo, quindi con un budget, portafoglio clienti e tutto quello che fa parte della mentalità di un'azienda. Quando però poi non fa più comodo, siamo un ente pubblico e dobbiamo fare i concorsi diversamente da come fa l'azienda. E quale equivoco? Non ha nessun senso. Non ha nessun senso, però voi siete legati ad una legislazione, ad una norma costituzionale, quindi dovete, senz'altro, farete dei concorsi. Allora, le dico Gallinaro, io da anni scrivo che sul Sole 24 Ore, di cui sono inviato, mi sono occupato per moltissimi anni di pubblica amministrazione, che bisogna rivedere profondamente il sistema di selezione dei migliori a partire dai luoghi pubblici. Quindi il suo ragionamento mi affascina moltissimo, però io non posso mettere in dubbio che lei sia una persona di correttezza, moralità, trasparenza e sarebbe anche pronto a bocciare suo figlio e non assumerlo, o sua figlia, o il suo vicino di casa, perché lei è una persona talmente rigida. Però, puntini, puntini, puntini, se l'immagina chi avesse invece tutt'altro aspetto e caratura, e purtroppo in Italia siamo sottoposti ad un fuoco di fila, ciascuno sceglierebbe, come accade purtroppo spesso nell'università, il pupillo, il raccomandato, l'amante, il vicino di casa. Ecco, mi distrugga questa obiezione, Gallinaro. Ma gliela distruggo subito, perché con il sistema attuale lei pensa che questo non accada? No, io penso esattamente il contrario. Allora, vede, una volta, io le faccio un esempio, un tempo, ma molti anni fa, usava depositare presso un notaio una lettera con il nome del vincitore, per usare poi questo documento come prova del misfatto e del fatto che ci fosse già un vincitore. Certamente, lo ricordo. Oggi se qualcuno facesse una cosa del genere si metterebbero tutti a ridere, perché di lettere ne potrebbero scrivere 100, tutte con lo stesso nome. Assolutamente d'accordo. Allora, io, guardi, sposo la sua provocazione, ripeto, una cosa che mi piace molto, però ritorno al punto principale, vale a dire quello che mette in evidenza anche la stampa. E quando dice in un sommario dell'intervista che le hanno fatto, mi stupisce che gli ospedalieri non si siano ribellati al sistema. Allora, io credo che qui sia effettivamente la necessità comunque di non poter viaggiare separatamente, voi a Torino per vostro conto e gli altri per proprio conto. Cioè, qui ci sono delle norme, purtroppo, ripeto, il concorso pubblico è regolato dalla Costituzione, non si può fare a meno di questo. Ed allora cosa vuol dire ribellarsi al sistema? Vuol dire che io ho ricevuto altro così di lettere, e non solo lettere, messaggi, telefonate di colleghi ospedalieri che dicono, beh, insomma, era ora che qualcuno queste cose le dicesse chiaramente. E allora se vogliamo fare il concorso, facciamolo. Concorso significa che uno vince, uno no, uno perde e tutti gli altri perdono. Uno arriva secondo, uno arriva terzo, quarto, quinto. Facciamo la graduatoria. Allora, visto che lei è una persona molto franca e schietta, a me piace fare questo tipo di puntate in cui, come sempre, del resto, io dico sempre quello che penso. Anch'io. Esattamente, per questo mi piace. Allora, quanti raccomandati ha assunto lei nella sua vita? Dunque, io faccio professore universitario e grazie a Dio in 30 anni sono riuscito ad essere sempre fuori dalle beghe, dalle camarille dei concorsi universitari. Non ho mai partecipato in una commissione di concorso, pur essendo da 30 anni professore ordinario. Perché altrimenti questo avrebbe... Mi dice qualcosa? Assolutamente sì. Mi dice che lei non vuole subire pressioni. Esatto. Adesso mi hanno sorteggiato per Catania e farò il mio dovere, perché è mio dovere farlo e lo farò. Però mi hanno sorteggiato e non posso dire di no. Ovviamente, ma io non ho mai partecipato a un concorso perché, per ragioni che ovviamente lei... Allora, visto che l'hanno sorteggiato, lei promette a se stesso, alla sua coscienza e a noi tutti, che se qualcuno a Catania prova a fare una pensione, lei per primo lo denuncia a Radio 24. Prima vado alla Procura della Repubblica, poi vengo a Radio 24. Benissimo, sono d'accordo, mi piace così. Allora, Gallinaro, altra domanda. Lei è stato assunto per raccomandazioni, ha fatto carriera grazie a raccomandazioni? Direi proprio di no. Io a 39 anni sono andato a Parma a dirigere la clinica ortopedica da solo, senza portarmi dietro nessuno, ho fatto una grande bella esperienza e poi è andato in pensione il mio professore qua a Torino e la facoltà di Torino mi ha chiamato. Quante amanti ci sono? Mio padre faceva l'ingegnere aeronautico e quindi le dirò, non lo so. Quante amanti ci sono nelle corsie del CTO di Torino? Io di questo non so nulla, io non ne ho, magari alla mia età, ma sa, ormai... E quanti raccomandati incapaci vede circolare nel CTO di Torino? In questo momento, beh, non ero preparato una domanda del genere, però di raccomandati incapaci penso proprio di non averne. Anzi, se lei ha letto l'articolo, lei sa di una mia specializzata da 4 anni, di cui poi la stampa non ha scritto alla fine, ma è stata assunta alla University of Southern California. Sì, ho visto, dopo 4 anni... A di specializzazione, esattamente, preso professore associato. Esattamente. Benissimo. Allora, guardi, questa chiacchierata mi è piaciuta. A lei è piaciuta? A me molto, sì. Benissimo, mi fa piacere. Allora, evviva il professor Gallinaro, che ha avuto il coraggio di dire una cosa sulla quale non bisogna, come dire, nascondersi. Purtroppo in Italia le raccomandazioni sono una prassi negativa. Evviva la faccia del dottor Gallinaro, che dice: ma a questo punto aboliamo i concorsi pubblici. Non si può fare, c'è una Costituzione di mezzo, ma vale la pena ragionarci. Grazie al professor Paolo Gallinaro, buon lavoro. Grazie a Pietro Lacorte in regia e in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.